a che età arriveremo? Cioè, stavi parlando prima della vecchiaia. Si alza l'età media. Quindi la Germania perderà 15 milioni di lavoratori. E guadagnerà 15 milioni di pensionati. E l'Italia 10 milioni. C'è da stare allegri, insomma. Caro paziente, ti scrivo. Sono la sua infermiera, cioè non proprio la sua, sono una delle tante infermiere che si è presa cura di lei. Così si apre una lettera a Repubblica in cui un'infermiera racconta quel delicatissimo rapporto con i pazienti, e gli infermieri sono un segmento della sanità oggetto del blocco delle assunzioni, come tutti i dipendenti pubblici, oggetto di tante altre problematiche burocratiche di cui parleremo, ma molto importanti nel rapporto e nella cura della malattia. Qual è la differenza tra un medico e un infermiere? Lo sapete? E come la traccereste anche dalle vostre esperienze, visto che ormai anche gli infermieri hanno la laurea, visto che ormai c'è una specializzazione altissima, 3, 4, 8... 3, 4, 8... No. Ti sfugge, ti sfugge l'SMS, comunque potete inviarci 238-6666. 238-6666, questo il nostro numero SMS per partecipare alla trasmissione dalle 8:30. Oh, scusami, 349-238-6666. Grazie per avermi corretto, non ho davanti il monitor, si vede. 349-238-6666. Vogliamo sapere come definireste il confine, la differenza tra un medico e un infermiere, anche dalla vostra esperienza. Vogliamo sentire le vostre voci oggi. Non parleremo solo di questo, ma questo sarà il centro di 24 Mattino. Giulia Crivelli, grazie per questa bellissima rassegna stampa. Ci risentiamo, ci rivediamo domani mattina. Ultimo giorno domani. Ultimo giorno anche per quel che mi riguarda. Poi tornerà Alessandro Milas e la programmazione normale, diciamo così, il palinsesto normale di Radio 24. Fine delle festività. 24 Mattino. Un'altra volta da Irene Zerbini, 18 minuti dopo le 8, espatriamo, ce ne andiamo subito per il nostro incontro con chi ci osserva da fuori, o portando due culture, un po' perché era italiano e se n'è andato, o un po' perché ha scelto, o per questioni professionali o altre ragioni, di vivere in Italia, di raccontare l'Italia al mondo come i corrispondenti che vivono in Italia. Restare o emigrare è stato definito dal Fatto Quotidiano di ieri addirittura un dilemma, un problema, e lo si può osservare molto bene negli aeroporti, ci racconta un articolo del Fatto. Allora, buongiorno e benvenuta a Caterina Soffici. Buongiorno. Caterina, tu di aeroporti devi averne visti parecchi in questi anni, immagino. Noi sì. Guarda, ci sono le ormai riconosco alcune facce, soprattutto nelle date, quelle canoniche in cui si muovono le famiglie, no? Che più o meno sono quelle delle scuole. E noi, insomma, io poi volo principalmente esigenza, volo con tutti i voli low cost, per cui ogni tanto vedo qualcuno in coda, dico: ah, questo qua l'ho già visto, dove l'ho visto? E penso: no, è uno di esigenza. Quindi sì, siamo al riconoscimento del personale, incredibile. Comunque, Caterina Soffici, lasciati presentare, è la corrispondente del Fatto da Londra, è una collaboratrice dell'inserto domenicale del Sole 24 Ore, è corrispondente per Vanity Fair, è autrice di un libro molto intrigante, Italia Yes e Italia No. E di cosa parli in questo libro? Guarda, lo spiega il sottotitolo, è: che cosa capisci del nostro paese quando vai a vivere a Londra. In verità io parlo di Londra, ma parlo molto anche dell'Italia, e faccio una serie di confronti che sono quelli che poi sono le cose che interessano di più agli italiani, perché spiega poi questo fenomeno, che è un fenomeno che è scoppiato negli ultimi due anni, e praticamente gli italiani a Londra siamo più di mezzo milione ormai, che è una grossa città, una medio grande città italiana dentro Londra. Certo, per un totale di popolazione di questa metropoli, di quanto? Sì, il totale di Londra sono 8 milioni, 9 milioni di persone, per cui insomma comunque sono tra 8 e 9 milioni, insomma, per cui è comunque una grande comunità. sono un'altra grande comunità, sono quella dei francesi, ma sono tradizionalmente attraversano la Manica, per loro è mentalmente più veloce, insomma è una cosa diversa l'immigrazione dei francesi. Quella italiana è molto recente, soprattutto è molto recente questo afflusso di giovani che vengono qua o per studiare o per cercare un primo impiego, insomma è una cosa che si è scritta tante volte ma che non accenna a diminuire, anzi purtroppo continua a una media. Guarda, al consolato danno questi dati, parlano di un 2000 nuovi iscritti all'AIRE, che sarebbe il registro per gli italiani che vivono all'estero, diciamo così. All'estero ufficialmente si iscrivono 2000 persone al mese nuove. E pensate anche che molte persone. Loro fanno una stima di una persona che si iscrive e tre che arrivano. Esatto. Molte persone anche quando vivono all'estero non si iscrivono all'AIRE. Perché molto spesso pensi di perdere dei diritti che hai in Italia, pensi che poi è più complicato votare, pensi, insomma, non tutti, poi soprattutto se sei giovane e vieni per provare, per fare un'esperienza e così non ti iscrivi, per cui insomma il fenomeno è veramente imponente, insomma, un fenomeno massiccio. Prima di concludere vorrei toccare alcuni punti velocemente con te, perché fai un riferimento nel tuo libro anche al film sull'emigrazione, diciamo così, quella classica tradizionale in Svizzera degli italiani del dopoguerra fino agli anni 70, a Nino Manfredi di Pane e Cioccolata, che a un certo punto si chiede: ma se devi fare dei lavori umili non è meglio farli in Italia? Perché sappiamo che gli italiani a Londra fanno anche i camerieri, i commessi, gli aiuti cuoco, e quando tu hai chiesto ai tuoi connazionali perché, o hai sottoposto questo dilemma di Nino Manfredi, cosa ti hanno risposto? Che percezione hai? Che preferiscono fare il cameriere a Londra, che è abbastanza assurdo, perché se ci pensi io lo preferirei farlo in Italia, se di fare proprio il cameriere, perché almeno mangi bene, c'hai il sole e vivi bene. E invece loro ti dicono no, perché a Londra comunque intanto pagano meglio, intanto un lavoro, se tu sei bravo, riesci a tenerlo, a mantenerlo e hai delle garanzie, e poi perché comunque c'è una prospettiva, anche un cameriere può diventare capocameriere, se si impegna, poi da capocameriere può diventare manager del suo piccolo... c'è una sensazione di possibilità di futuro. Sì, c'è una possibilità di futuro. Io ne ho conosciuti tanti di questi ragazzi che poi diventano manager di un negozio, poi da quello casomai incontrano un amico che ha un po' di soldi da parte, oppure riescono ad avere un piccolo finanziamento e aprono il loro piccolo negozio. E sai, una città di 8 milioni di persone, 9 milioni di persone, le possibilità ce ne sono molte di più che in Italia, però proprio la mentalità che cambia. E già chi sulla mentalità e se ne va ha già una mentalità più imprenditoriale, diciamo così, e più c'ha più iniziativa, no? Non è che sta lì. Sulla mentalità, Caterina, un'ultima domanda. Dimmi. Perché vogliamo affrontare anche il tema fiscale con un amico fiscalista che abbiamo in onda. Riguarda le donne, proprio leggendo il tuo libro, si parla delle madri, delle scuole, delle donne che possono andare in TV anche se hanno le rughe. Cioè, come sintetizzeresti la differenza? Anche qua è maggiore libertà e meno sessismo, e io questa cosa me ne accorgo soprattutto quando sono appena rientrata dall'Italia, come adesso che sono venuta per le vacanze di Natale. Cioè le donne in Italia in televisione sono tutte belle tirate, tutte truccate, tutte messe in una maniera diversa da come le vedi in Inghilterra. In Inghilterra ogni tanto vedi delle persone che dici va, cioè sembra una persona normale, sembra la commessa che hai visto al supermercato, sembra la maestra del figlio che accompagna a scuola, e siccome casomai è una maestra oppure semplicemente una professoressa, una che ha delle cose da dire, va in televisione la mattina vestita come poi dopo va a scuola, capito? Invece in Italia anche nelle trasmissioni della mattina, anche in queste cose, te vedi sempre le persone vestite come se andassero a un ballo la sera, andassero in discoteca, sempre molto molto messe, molto naturali, capito? Anche questo dà un'immagine della donna che non è un'immagine è un'osservazione semplicemente di costume, ma poi ha delle ricadute sul rispetto della donna che non viene vista e vissuta solo come qualcosa da guardare. Certo, hai capito? perfettamente, cioè perché il sessismo nasce anche da queste piccole, sembrano piccole cose, ma poi questo ha anche delle ricadute. Cioè, Caterina, devo interromperti perché dobbiamo parlare di fisco con un amico fiscalista londinese, mentre è stato bellissimo sentire da te la sintesi di queste differenze così sostanziali. Grazie per averci segnalato anche il raddoppio della popolazione italiana praticamente negli ultimi anni a Londra. 500.000 italiani hanno raggiunto la capitale inglese e sappiamo benissimo che la mobilità ormai è in aumento. Ma perché si scelgono certe mete e non altre? Lei è riuscita a spiegarcelo. Caterina Sofici, giornalista, corrispondente dell'inserto domenicale del Sole 24 Ore del Fatto. Grazie naturalmente, a presto Caterina. Grazie a voi, buona giornata. E noi ci chiediamo in questi giorni come è stato possibile tutto questo marasma sull'introduzione dell'articolo 19 bis della delega fiscale. Cioè, ci siamo chiesti, a margine delle polemiche sull'intenzionalità o meno di agevolare Silvio Berlusconi, ma la depenalizzazione della frode fino a qualunque tetto esiste all'estero? E per rispondere a questa domanda abbiamo scomodato, diciamo, un commercialista, per semplificare, è un consulente fiscale per imprese private, vive a Londra e lavora a Londra con imprese private, ha un master nella fiscalità internazionale dopo aver conseguito una laurea a Pisa, ma ormai da più di 20 anni ce lo siamo perso, anche lui. Buongiorno, benvenuto Filippo Tenderini. Buongiorno e grazie per avermi invitato alla nostra trasmissione, buongiorno a tutti. Buongiorno, senta, so che è un orario difficile, sono le 7.27 a Londra, 8.27 in Italia, e prima di entrare nell'eccesso o meno del penale che caratterizza la legislazione fiscale italiana, a grandi linee, se lei dovesse sintetizzare le differenze con il sistema inglese, quali sono i macro elementi? Ma guardi, io, come diceva giustamente lei, sono quasi 20 anni che sono in Inghilterra, sono arrivato nel lontano 1996, ho passato due governi di opposte idee, perché sono arrivato quando si è insediato il governo Blair, ben seguito poi da quello Brown, per arrivare ad oggi di sinistra, quindi per arrivare ad oggi al governo di Cameron, che non dimentichiamo, è addirittura un governo di coalizione, una cosa molto particolare e particolarmente strana per l'Inghilterra. E entrambi hanno avuto meno male sempre lo stesso leitmotiv, cioè è stato così, quindi la burocrazia, i cosiddetti i nastri rossi, come diciamo qua in Inghilterra, e procedere a una defiscalizzazione soprattutto a livello corporativo delle società, delle aziende, premiando quindi l'imprenditoria. Possiamo parlare di semplificazione dei processi? Assolutamente sì, perché nonostante ce ne siano ancora tanti, è una vera e propria determinazione di tutti i governi, è quella di cercare di diminuire, di semplificare, di permettere, come dicevo prima, all'imprenditore di non perdere troppo tempo in robe che non siano la produzione, che non siano la messa in atto di servizi che possano far girare l'economia. C'è la Guardia di Finanza? C'è la Guardia di Finanza o l'equivalente? No, in Inghilterra c'è da prendere in considerazione che abbiamo soltanto, per esempio, l'ufficio entrate, non la Guardia di Finanza, quindi l'ufficio entrate si chiama HR Revenue and Custom, che appunto equivale al nostro ufficio entrate, che è collaborativo con il contribuente, nel senso che nel momento in cui hanno bisogno di informazioni chiamano, vengono, si siedono ad un tavolo con il contribuente, chiedono le informazioni di cui hanno bisogno, le analizzano con il contribuente stesso, per poi essere lasciati ad analizzarle da soli per il tempo loro necessario, per poter determinare se effettivamente il contribuente ha svolto il proprio compito come avrebbe dovuto fare o meno. E se ha sbagliato? Non esiste. E se ha sbagliato? Se ha sbagliato, ovviamente sono previste, dipende dallo sbaglio, perché ovviamente è una mera mancanza di dichiarazione di un importo per un errore amministrativo piuttosto che perché effettivamente una normativa è stata interpretata nella maniera scorretta, viene semplicemente punita con l'imposizione delle imposte evase più interessi e sanzioni che possono arrivare fino al 100%. Allora possiamo dire, esatto, nel caso di frode che il discrimine sia il dolo. Nel caso di frode, esatto, nel caso di frode non c'è pietà, è assolutamente previsto un imprigionamento per un periodo di tempo variabile, ma di minimo 5 anni, perché qua in Inghilterra, soprattutto dal 2000, dagli anni 2000 in poi, quando sono state recepite le direttive europee, nel 2003 la prima, nel 2007 la seconda sull'antiriciclaggio, sono diventati, lo erano già prima, ma sono diventati molto molto decisi e determinati nel combattere il riciclaggio di denaro. Grazie, grazie a Filippo Tenderini, è riuscito in pratica a sintetizzarci quasi una lezione universitaria in pochi minuti, in poche parole. Il discrimine lo vedete anche lì, ma non è solo in Gran Bretagna che si applica questo principio, non è la percentuale evasa, eventualmente appurata dall'organismo di controllo, ma il dolo, cioè l'errore genuino e diverso da chi evade le tasse volendo farlo, cioè in maniera fraudolenta. Chiudiamo questa pagina, ritorniamo in Italia per parlare di infermieri, proprio così, tra pochissimo. 24 mattino. Questo SMS non l'ho capito. Quando chiami dottore o dottoressa si voltano tutti tranne i medici. Grazie Stefano per la segnalazione polemica. Ancora buongiorno da Irene Zerbini. Stanno arrivando i vostri messaggi al 349, questo è il numero, 238-6666, perché vi abbiamo chiesto qual è la differenza, nella vostra esperienza, quello che avete vissuto tutti i giorni con voi, con i vostri cari, tra un medico e un infermiere. E ci hanno scritto che il medico è colui che cura la patologia, mentre l'infermiere è colui che cura il paziente. Un messaggio che arriva da Novara e lo firma Tiziano. Gli infermieri non fanno diagnosi, ci spiega qualcun altro, sempre molto tecnico, perché per legge non sono fatti per farle, non possono scegliere la cura, ma attuare le cure scelte dai medici. I problemi ci sono quando gli infermieri per mania fanno i medici e i medici non sanno più fare i medici. Un'altra segnalazione. Poi lo vedremo insieme ai nostri ospiti se davvero ci sono queste polemiche in corsia. La cosa che però vogliamo proporvi è l'essenza, l'umanità di questa professione. E non possiamo farlo noi, ci è riuscita benissimo Helen Bortoletto. Chi è Helen Bortoletto? È un'infermiera che ha spedito questa lettera che Repubblica ha pubblicato sabato 3 gennaio 2015 e ha colpito migliaia di persone. Sono la sua infermiera, cioè non proprio la sua, sono una delle tante infermiere che si è presa cura di lei, paziente. Le ho tenuto la mano mentre piangeva, l'ho lavata e ho cercato di ignorare il suo imbarazzo, sorridendo. L'ho sostenuta, incoraggiata e aiutata come potevo, come sapevo. E voglio ringraziarla. Mi ha sorriso, si è fidato di me, mi ha stretto la mano. Lei nel suo letto e io in giro in corsia. Ho capito che era stanca, che avrei voluto fare di più ma non riuscivo, che il turno era devastante. Voglio anche chiederle scusa per tutte le volte che sono passata frettolosamente, per quando ho urlato perché i suoi parenti erano troppi, per quando non mi sono spiegata chiaramente. Per quando non ho capito che la sua aggressività era rabbia contro il destino e non contro di me. Io e tutti i miei colleghi facciamo quello che possiamo, del nostro meglio, a volte anche di più, ma non basta, lo sappiamo. Ma siamo umani anche noi, umani appassionati e stanchi, professionisti competenti e seri, ma con voglia di ridere e far ridere. Siamo vicini a voi e ai vostri cari in un momento difficile, la malattia, e ci troverete sempre lì. L'ho trovata molto interessante, intelligente, descrive una realtà, descrive una situazione e addirittura chiede scusa. Capacità sempre più rara. Buongiorno Helen Bortoletto. Buongiorno a lei Irene, buongiorno. E lei è l'autrice di questa lettera. Devo chiederle perché, perché le è venuto in mente di scrivere ai pazienti dopo 30 anni di professione? Ma in realtà è stata la lettera della fine dell'anno. Io sono rientrata da un turno del pomeriggio, sono andata a dormire, mi sono resa conto che non solo dovevo fare il riassunto di tutto quello che avevo fatto durante il giorno, durante la settimana, ma anche tutto quello che avevo fatto nell'anno. E mi è venuto in mente tutte le volte che non ho ringraziato i miei pazienti, mi sono venute in mente le volte che non ho chiesto scusa, ho deciso di farlo. Mi sono alzata e ho scritto questa lettera di getto e l'ho inviata a qualche giornale così in giro per l'Italia per esternare il mio ringraziamento e le mie scuse. Da quante ore non dorme Helen? Che ore sono? Le 8:39. Oh beh, 20. E ha fatto il turno di notte? Sì. E forse in certe condizioni è anche giustificabile dimenticarsi di salutare a volte, no? O di ringraziare. Chi lo sa giustifica, chi non lo sa, non salutare non è accettabile, no? Non dire grazie non è accettabile. Cerco di trovare delle giustificazioni perché la sento molto intransigente con se stessa, ma capisco anche la delicatezza del ruolo e del posto in cui lavora, per cui quello che voi fate in realtà ha delle ricadute importantissime sulla persona, sulla salute e anche di conseguenza sulla guarigione. 800 24 00 24, vogliamo sentire anche voi ascoltatori che ci state scrivendo tantissimi al 349-238-6666. Gli infermieri, ci dicono gli ascoltatori, sono molto più vicini agli ammalati e sono pagati troppo poco per quello che fanno, e c'è infatti una questione salariale. Pensate che festività comprese, a contatto col dolore e la sofferenza, hanno delle turnazioni selvagge, sono tra l'altro anche laureati, lavorano sotto organico e guadagnano circa di media in Italia 1300 ore al mese. Lei è preoccupata per i suoi colleghi, ne ha visti tanti in fila per un concorso che regolarizzasse la loro posizione. Di che concorso si tratta e quanti erano i posti disponibili? Il concorso era quello di Chivas di qualche anno fa, erano 3000 persone che si presentavano per 10 posti. Adesso tutte le aziende sanitarie della regione Piemonte stanno pescando da quel concorso, ma comunque sono scaduti moltissimi contratti degli interinali, degli infermieri interinali, e quindi le aziende sanitarie non assumeranno abbastanza persone per sostituire quelli che stanno andando via adesso. Il blocco delle assunzioni nel pubblico, quando si pensa a questo, chissà perché non si pensa mai alla categoria degli infermieri, vengono in mente, poi in questi giorni soprattutto i vigili urbani vengono in mente, dipende da quale momento dell'anno sia, sono innanzitutto più visibili perché sono per strada, però non si assimila mai la vostra specialità, la vostra professione a quella del dipendente pubblico. C'è il blocco delle assunzioni, questo ha portato a una carenza molto pesante in Italia. E chiedo al senatore, anzi alla senatrice Annalisa Silvestro, innanzitutto buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Senatrice, lei ha proposto un disegno di legge proprio per ha presentato un disegno di legge proprio per favorire l'ingresso dei giovani nella professione, ma partiamo innanzitutto dalla situazione attuale, prima di descrivere quello che bisognerebbe fare. Quanti infermieri mancano in Italia? Ma se ci riferiamo alla media europea, moltissimi, siamo oltre 60.000 mancanti. Se vogliamo essere più, come dire, pragmatici e guardare quella che è la realtà nostra nazionale, comunque non meno di 30.000. Non meno di 30.000 è un numero che è destinato a aumentare? Assolutamente sì, anche perché l'orientamento attuale finalmente, mi viene da dire, è di cercare di ampliare l'assistenza sul territorio, l'assistenza nelle case, nelle famiglie dei nostri concittadini, e questo richiede un numero decisamente più alto di infermieri di quanto adesso non ci siano sul territorio. La vostra associazione di cui lei è presidente, c'è una sorta di ordine professionale, si chiama IPAS. Cosa vuol dire questo acronimo? È un acronimo che risale a molti anni fa, quando gli infermieri avevano accanto alla parola infermiere il termine professionale per distinguerli da infermieri generici, che ora non esistono più. Quindi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia. Le vigilatrici d'infanzia sono le attuali infermiere pediatriche. Noi abbiamo tenuto quell'acronimo da una parte perché ci siamo affezionati, ma dall'altra soprattutto perché ancora per legge non si è riusciti a modificare la strutturazione nominalistica che riguarda la nostra professione, per cui ci chiamiamo per legge ancora infermieri professionali. E invece cosa siete, se dovesse descrivere quello che un infermiere è oggi? Visto che lo stiamo chiedendo agli ascoltatori, lo chiediamo anche a lei. Ci hanno detto gli ascoltatori che i medici fanno la diagnosi e gli infermieri no. E c'è anche qualche altro infermiere che scrive al 349-238-6666 dicendo: la società purtroppo non ci considera dei professionisti, ma dei missionari. Cioè anche quando siamo apprezzati è più un apprezzamento quasi umano più che professionale. Sì, beh, devo dire che i suoi ascoltatori hanno un po', come dire, colto nel segno. In realtà l'infermiere è un professionista che svolge appunto in quanto tale una professione intellettuale per la quale si prepara con almeno 3 anni di percorso accademico universitario, a cui possono essere aggiunti altri 2 anni per acquisire la laurea di secondo livello magistrale, poi può fare master eccetera, dottorato di ricerca addirittura, mi viene da dire. Quindi è una professione fortemente intellettuale che utilizza metodi e strumenti scientifici tipici della formazione accademica, metodo quindi rigoroso, ma che fondamentalmente coniuga questa capacità tecnico-scientifica con un orientamento molto forte ad occuparsi non della patologia in quanto tale, ma di quello che la patologia produce sulla persona, quindi tutti i bisogni che la persona manifesta a seguito di un evento patologico. Quindi diciamo che l'infermiere è il professionista, diciamo così, della salute, quello che accompagna, sostiene. Ma senatrice Silvestro, alla fine di un percorso, ci auguriamo, non è sempre così, ma nella maggior parte delle volte di guarigione, quello che si ricorda nella società è il nome del medico che ha curato, non dell'infermiere, anche se poi le esperienze personali sono diverse, nel senso che l'assistito ricorda benissimo l'infermiere, e lo dimostra anche quella quantità di lettere di risposta che Helen Bortoletto, che abbiamo sentito prima, ha ricevuto in seguito alla sua lettera a Repubblica. Ma è come se ci fosse una discrepanza tra il riconoscimento sociale e l'esperienza del malato. Su questo invito a riflettere anche voi, raccontateci pure la vostra storia, torneremo infatti tra pochissimo per le conclusioni. 800 24 00 24 per chi mi chiede il numero di telefono via sms, 800 24 00 24. Ora diamo la linea alla regia per il traffico e poi torniamo insieme. 24 mattino. L'immagine che viene è quella del infermiere, la infermiera in un ospedale, guarisce le ferite una a una, ma con le sue mani. Una voce leggermente nota, non ha bisogno di presentazioni. È così infatti che anche il pontefice si è soffermato sull'immagine dell'infermiere. Se Gesù Cristo tornasse sulla terra sarebbe, ha detto, non un medico, attenzione, non un professionista, ma un infermiere. Credo sia stato un riconoscimento che vi abbia fatto decisamente piacere, Helen Bortoletto. Assolutamente sì. A laici e credenti, immagino. Laici e credenti, sì, perché non è una missione, per l'appunto, è una professione, è riconosciuta dalla legge, è misconosciuta dalla società, e ci si accorge degli infermieri solo quando si hanno bisogno di loro. Senta Helen, vogliamo dare un dato che è anche tipico della vostra professione, cioè la quantità di infermieri sui ricoveri. In Campania, attenzione, c'è un infermiere di 28 o 58 anni, questa è la fascia d'età, perché poi vi parleremo anche di quelli più anziani, ogni 35 ricoveri, contro una media nazionale di 1 ogni 28 ricoveri. In Basilicata c'è un infermiere ogni 21 ricoveri. Questi sono parametri che sono utilizzati a livello internazionale per segnalare la carenza di infermieri in Italia, perché abbiamo parlato di 20-25 mila unità, quando pensiamo semplicemente all'assistenza ospedaliera e negli ambulatori. Se dovessimo allargarla al territorio mancherebbero, i conti crescono ancora di più, e sono 60.000 unità. Sì, assolutamente sì, probabilmente queste mancanze non sono solo di persone assunte, perché probabilmente, questo è un dato che io non conosco, ma probabilmente ci sono tanti infermieri, ma non vengono assunti, come dicevamo prima, il blocco delle assunzioni impedisce le assunzioni. Quindi, peraltro, la letteratura ci dice che un maggior numero di infermieri nelle unità operative diminuisce il rischio di morte delle persone assistite. Lei insegna? Io sono collaboratore alla docenza, sì, all'Università di Torino, e dal 2006, dal 2005. Quindi forse. Lei forma anche i futuri colleghi. Sì, è corretto. Qual è una materia che insegnate nella facoltà di infermieristica e che a medicina non c'è? Vabbè, tutte le materie prettamente infermieristiche. Infermieristica medica, infermieristica chirurgica, e molte di queste materie, le specifiche di chirurgia e chirurgia d'urgenza piuttosto che urologia e ortopedia vengono insegnate da medici, ma le materie prettamente infermieristiche sono insegnate da infermieri. Senta, c'è anche una nota critica tra gli ascoltatori che ci scrivono apprezzando tantissimo, sono la maggioranza, il vostro lavoro naturalmente, oltre che quella dei volontari del 118, degli infermieri che stanno al 118, non solo quelli in corsia. Ci sono coloro che denunciano l'eccessiva sindacalizzazione di alcuni, gli infermieri che facevano strisciare il cartellino ai colleghi, e alcuni che sono molto maleducati con i malati. Lei ha assistito a un'ora del vero, so che lei, non le chiediamo di denunciare la categoria, ma sa che ci sono questi episodi? Allora, tutte le categorie hanno i buoni e i cattivi. Io personalmente sono considerata molto intollerante e maleducata da alcune persone, quindi tutto dipende da come si vede la persona in quel momento e da cosa c'è dall'altra parte. Al mattino, dopo 9 ore di turno e magari 3 minuti seduta, sono molto più maleducata che non quando arrivo fresca e riposata a lavorare. Questo è innegabile, ma se devo saltare un pasto e non ho tempo per andare a fare la pipì, sono molto maleducata, io stesso lo ammetto. E quindi è dovuto anche alle condizioni in cui ci si ritrova. Allora, la prossima volta il consiglio è cercare di far ragionare l'infermiere se ha voltato le spalle di fretta e ha risposto male, non prendersela a livello personale. Questi sono alcuni dei consigli che arrivano al 349-238-6666. Vorrei tornare alla questione naturalmente legata purtroppo ai piani di rientro, legata a questioni contabili degli infermieri che mancano. Senatrice Annalisa Silvestro, e ci sono anche appelli da parte degli ascoltatori che dicono eliminiamo i nulla facenti negli uffici statali, nel pubblico, e assumiamo molte più persone utili come gli infermieri. In questo momento non è possibile, ma ci illustri quello che è il suo disegno di legge per favorire il ricambio generazionale nella professione. Sì, mi permetto, prima di rispondere alla sua domanda, di sottolineare che è vero che ci sono delle difficoltà per assumere e che molte regioni sono in piano di rientro e hanno delle difficoltà economiche, ma ci vuole anche un po' di buona volontà. Io credo di poter affermare che in alcune, per non dire in molte regioni, si utilizza la stasi occupazionale per rimettere a posto i loro conti. Un po' più di buona volontà non guasterebbe, anche perché qua si sta parlando di categorie professionali, parlo degli infermieri, ma non solo, che fanno la qualità dell'assistenza, riescono a accelerare la guarigione, riescono a evitare dei danni ulteriori, per cui insomma si tratta di investire davvero sui propri concittadini e si tratta quindi di investire sul benessere in generale della collettività. Quindi io mi permetto, dottoressa, di spezzare una lancia a favore di coloro che non guardano il mero conticino economico, ma guardano anche l'obiettivo che hanno le aziende sanitarie, che è quello di fare guadagni di salute e quindi che non si possono conteggiare semplicemente con numeri. Ma no, ecco, cosa prevede il suo disegno di legge? Sì, io ho presentato un disegno di legge in cui dico ci sono un numero abbastanza importante, siamo circa sui 30.000 infermieri che sono vicini all'età pensionabile, a cui manca poco tempo, pochi anni, un paio d'anni per andare in pensione, io propongo che volontariamente queste persone possano scegliere di fare lavoro a part time, cioè scendere al 50% del dovuto orario contrattuale, mantenendo ovviamente l'integrazione contributiva, in modo da non doverci rimettere nel momento in cui vanno in pensione, con i soldi che vengono recuperati da questa diminuzione al 50% dell'orario di lavoro, si possano assumere giovani infermieri disoccupati o inoccupati, in modo da, come dire, reintegrare le dotazioni organiche, ma soprattutto inserire linfa vitale, fresca, motivata, preparata nelle nostre corsie sul territorio. Questo per aggirare in qualche modo il blocco totale del turnover. Sì. Perché gli infermieri ultra sessantenni con un'anzianità professionale ai 30 anni, che tra l'altro sono 13.000 in Italia, dovrebbero, secondo lei, accetterebbero, aderirebbero volentieri a questa iniziativa? Ma bisognerebbe intanto dare corso e cercare di portare in aula e in commissione questo disegno di legge, che ha ricevuto molte, come dire, molte stasi anche lui, ma dall'altra parte provi a pensare, e invito a pensare, che la parte prevalente degli infermieri sono donne. A quell'età cominciano ad avere i nipoti, cominciano ad avere i genitori purtroppo che hanno bisogno di assistenza, possono anche avere il desiderio di dedicarsi un po' più a loro stesse e meno alla professione, quindi secondo me ci sarebbe una richiesta molto sostenuta di poter entrare in questa direzione. Questo è molto interessante, perché in questi giorni stiamo chiedendo a voi ascoltatori di fare il vostro Jobs Act, argomento di cui parleremo domani a 24 mattino, e molti ci hanno dato indicazioni di questo tipo, cioè proporre una riduzione volontaria al part time. Chi l'ha provato nelle proprie aziende sembra che funzioni non solo per le donne. Continuate a scriverci, tra l'altro, a 24mattino@radio24.it su questo tema. E il lavoro di infermiere è naturalmente particolarmente logorante, è molto difficile ormai negli ospedali perfino organizzare le ferie. Quante sono le notti di seguito che un infermiere di solito fa? A chi rivolge? A lei. Ma dipende dallo schema di turno che viene definito nelle diverse aziende, non c'è un turno unico a livello nazionale. Ma visto che lei raccoglie le esperienze un po' di tutti i colleghi d'Italia, cosa le raccontano? Normalmente c'è una notte ogni 5 giorni, nell'ambito dei quali c'è anche la giornata di riposo. Una notte ogni 5 giorni. Sì, Helen, da quanti giorni sta facendo le notti lei? Tanto per ho fatto solo 2 notti di fila, le rifarò la prossima settimana. E ci sono turni abbastanza logoranti e massacranti, e tutti quanti lo sappiamo. Quando lei ha iniziato 30 anni fa, Helen Bortoletto, era così? Era peggio. Cioè? Non lo so, forse ero più giovane, pativo di più, devo averci fatto il callo a questi turni devastanti. Sono un po' stufa in effetti, però io accoglierei molto volentieri la proposta della senatrice. Lei è una di quelle che aderirebbe al disegno di legge. Sì. Ha visto Annalisa Silvestro, senatrice, ha avuto un'adesione anche in diretta. Lei lo farebbe il medico, prima di salutarci, Helen Bortoletto? Assolutamente no, ma devo dire che i migliori medici sono quelli che sono nati come infermieri. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. 58 minuti dopo le 8, con noi Annalisa Silvestro, senatrice e presidente dell'IPASVI, Helen Bortoletto, autrice di una lettera che ci ha toccato sulla professione infermieristica. Grazie a Peter Bescapè, è in regia e mi sta facendo dei segni terribili all'epifania, aveva detto mi avrebbe trattato bene, non è così. Lorenzo Nespoli, autore della trasmissione insieme a Elisabetta Fusconi, da Irene Zerbini, appuntamento a domani.